moltissimi lavoratori, quelli che come me avevano 20, 30, 35 anni. E la cosa paradossale è stata che prima che questo avvenisse, spesso parecchi di noi hanno in qualche modo spiegato il lavoro, no? ai nuovi arrivati, no, beh, e poi no. Dopo qualche tempo... La ruccia, se venivi col trucco, E invece poi, ecco, per dire, l'ultimo lavoro, che era un lavoro in regola, era un lavoro, diciamo, serio, tra virgolette, no? Contratto a tempo indeterminato. E l'ultimo lavoro, ecco, vabbè che era, insomma, essendo lavorando in stazione, c'hai un po' tutti i tipi di gente, dall'impiegato all'imprenditore coi soldi, al tossico, al barbone, a... che ne so, allo studente, cioè tutti i tipi di gente, quindi sono stata a contatto con, non con un determinato target, ma con, diciamo, con una buona totalità di tutti i tipi di persone, e pur essendo un lavoro in regola, ecco, per dirle, adesso per affrontare un po' questo discorso anche della tutela della donna sul posto di lavoro, nel momento in cui riceve molestie, il problema è che quando te c'hai a che fare con dei clienti, nel senso tu sei arrivato al bancone, cioè davanti al bancone dei clienti, e quelli magari fanno degli apprezzamenti, tu non li puoi mandare a fanculo. No, sì, però io vuol dire, no. Diciamo così, della linea Montessori, e ha iniziato questo lavoro. Io ho preso prima come aiutante insegnante, poi non sapeva più dove mettermi, perché essendo lei una persona non preparata, diciamo, ecco, non era molto preparata a gestire qualcosa, e i suoi sbagli, i suoi errori venivano, come dire, sfogati sul personale, che lei non riusciva a gestire. Oggi diceva una cosa e della sera ne ripensava un'altra, e diceva di aver detto così, invece non era così. Insomma, alla fine ha usato, come dire, il mobbing, perché ognuna di noi, io sono da precisare, la nona persona che si è dovuta, è stata costretta a licenziarsi per le sue cattiverie, i suoi modi di comportarsi nei nostri confronti, miei e quelli anche delle altre persone, di una cuoca, di maestre addirittura, che si erano licenziate in altri posti di lavoro come maestre, sono entrate a lavorare per lei e sono state costrette ad andare via, perché lei li ha proprio costrette ad andare via, praticando il mobbing proprio quando lei non aveva possibilità, non sapeva come fare, e faceva licenziare, ritenendole poi loro colpevoli di averlo fatto. Riescono a rapportarsi con il nostro comportamento, che è quello di semplici dipendenti che si rapportano con un coordinatore, una persona che ha delle mansioni diverse dalle mie, che coordina, gestisce il mio lavoro, senza entrare nel merito delle capacità individuali, ma non ha ricevuto un potere divino, un'elezione, insomma, è semplicemente una divisione di ruoli, di compiti, e loro invece la vivono come insomma, noi dobbiamo riconoscergli, perché la loro forza sta proprio nell'ottenere riconoscimento del proprio potere da parte dei dipendenti o dei sottoposti, come preferiscono considerarli loro. Questa cosa con noi non sono mai riuscita a farla, e ripeto, mentre prima il problema si poneva marginalmente, poiché avevamo dei capi diversi, ora il problema è sentito molto più forte a partire dall'11 agosto in poi, perché loro si sentono i nostri capi e noi questo ruolo non glielo riconosciamo, al di là, ripeto, delle capacità, ma proprio perché è lontano da una nostra logica di lavoro. Quando noi eravamo gestite dalle ragazze del box, non c'è mai stato da parte loro un atteggiamento di questo tipo. Nel senso, io sono il capo, sono superiore, no, c'è sempre stato un rapporto paritario, io gestisco il tuo lavoro, quindi noi non siamo abituati e non ci pieghiamo a questa logica.